Il problema sembra che sia oggi vincere. Il come dipende dal risultato. Se il risultato non mi soddisfa, allora il come diventa un problema. Ma nessuno mette in discussione la propria appartenenza per questo. È un po', come dire, noi siamo potenzialmente un paese in curva, nel quale le distanze ormai tra, dove siamo allo stadio sempre, perché la maggioranza ormai dei tifosi non va allo stadio, certo, sta a casa propria e da lì, come mostra anche la nostra, però in questo modo lo stadio è trasferito nella casa di tutti, oggi certo. Non c'è un giorno nel quale non ci sia una partita, e quando, come adesso, c'è la pausa della nazionale, si entra in sindrome d'astinenza, insomma, perché la nazionale è un'appartenenza, va bene, ma la squadra è un'altra cosa, cioè, parlo proprio dai dati che mi trovo, è un'evoluzione secondo me abbastanza sensibile.